9 in punto, la versione di Oscar. Allora, cari ascoltatori, buona giornata, buon inizio di settimana, buon lunedì 13 giugno. L'avete visto che il tanto sfottuto Oscar Giannino, che andava a votare sia pure per il no, per acqua e il referendum, e ha fatto campagna, non si sbagliava poi troppo quando vi diceva che sentiva aria da molti mesi di una partecipazione che ai referendum, come è avvenuto al secondo turno amministrativo, dove anche lì vi avevo puntualmente detto quello che poi è avvenuto, avrebbe portato molto più in alto la partecipazione al referendum di quanto sia capitato dal 1995. La questione è, per la classe dirigente che non ha antenne e non capisce quello che avviene nel paese, è una buona classe dirigente? Buona domanda. Secondo me no, secondo me vuol dire che quando le antenne recepiscono meno efficacemente segnali di questa portata, perché c'è in atto un cambiamento, una voglia di dire non ne possiamo più dopo tanti anni, in cui è molto rilevante l'aspetto del governo, datemi retta, non solo il merito dei quesiti, certo Clara Traina, ma il merito dei quesiti, la mia opinione è che questa classe dirigente o le ha le antenne e riesce a capire, ma non gli va di dirlo, non lo può ammettere, non è abituata a dire la verità, si pone di fronte a un leader la cui contestabilità è fuori discussione e quindi dice tutto va bene, ma dava la marchesa, e in questo caso sbaglia tutto, oppure se non ha le antenne e non recepisce questi segnali, allora è un grave segnale. Vuol dire che è un grave segnale per lei, perché ha smarrito la capacità di interpretare l'animus degli italiani. Ma di questo ne parleremo a urne chiuse, quando vedremo se in maniera ufficiale il quorum sarà superato. Le prospettive sono molto buone secondo me, e nel caso domani mattina con Alessandro Milan ci facciamo uno speciale congiunto dalle 8:20 fino alle 10, perché meriterebbe e meriterà senza dubbio, con ospiti, la vostra opinione, quindi preparatevi. Ma intanto questa mattina abbiamo un ospite speciale al quale abbiamo dedicato la trasmissione. Perché abbiamo dedicato la trasmissione a lui? Primo, perché è un presidente, è un neopresidente dei giovani imprenditori di Confindustria, quindi all'esordio del suo mandato, succede a Federica Guidi, che è stata spessissimo nostra ospite, lo ricorderete, alcuni di voi lo hanno sicuramente, parecchi di voi lo hanno ascoltato pomeriggio la settimana scorsa, ospite della Barisone nel suo programma pomeridiano. In questo fine settimana a Santa Margherita, in un tradizionale appuntamento insieme al convegno di Capri, che è pre-estivo e post-estivo, per così dire, delle riflessioni nazionali dei giovani di Confindustria, ha segnato il suo esordio con la sua nuova squadra alla guida del giovane imprenditore di Confindustria, e il presidente si è presentato alla tribuna di Santa Margherita con una relazione stringata ma tagliente, concentrata sui temi di come rilanciare la crescita, concentrandosi sulle vittime della bassa crescita italiana, e le prime vittime sono i giovani, le donne del Mezzogiorno, con una serie di poche proposte concrete per rianimare la crescita, che hanno lasciato il segno. Per dire, Giulio Tremonti, che è stato poi sabato protagonista insieme a Emma Marcegaglia del dibattito a conclusione di Santa Margherita, non ha mancato, sia pure senza polemica troppo ruvida, di notare che sì, i giovani sì, ma insomma il problema, essere giovani non è una caratteristica positiva, ha detto, perché ha enumerato una lunga serie di statisti, a cominciare da De Gaulle, Roosevelt eccetera, che poi il meglio lo hanno dato quando erano avanti o molto avanti addirittura negli anni. E invece anche nella sua replica Jacopo Morelli ha ribadito, beh sì, però intanto qui i dati sono i dati. Allora abbiamo deciso di dedicare a Jacopo Morelli, il presidente del giovane imprenditore di Confindustria, questa ora per presentarvelo, per fargli parlare meglio, con più agio nel tempo, del come e perché si diventa giovane imprenditore di Confindustria, che senso ha ancora l'associazione dei giovani imprenditori di Confindustria, qual è la sua visione precisa sulla necessità di politiche per la crescita a fianco del rigore, perché senza crescita noi continuiamo a essere bassi, e cosa pensa anche del dibattito che poi è proprio a Santa Margherita è decollato ed è sui giornali italiani ancora oggi, e cioè di questa presunta eterna contrapposizione tra Giulio Tremonti, che incarna la prudenza, che ha spiegato anche alla alla sala di Santa Margherita. Devo dire, l'ha spiegata senza il turbinio di applausi, è un gelido, formale, dovuto, applausi di cortesia all'inizio e alla fine, ma senza particolari entusiasmi. Ha spiegato la linea della prudenza, perché dice chi paga, e poi poche ore dopo Maroni lo ha puntualmente, per la prima volta, ed è clamoroso perché un'esponente della Lega di così primo piano è clamoroso, lo ha rimbeccato dicendo sì, però basta prudenza, qua bisogna andare avanti, farla sta riforma fiscale per la crescita. Bossi dice facciamo pagare le banche, alla domanda che proprio ieri Tremonti poi ha rilanciato dal convegno di Levi con della CIS, dicendo sì, ho capito, ma se voi, io vi posso fare la migliore riforma per la crescita fiscale che volete, però poi sono decine e decine di miliardi di euro, se non la faccio a parità di gettito fiscale ma la faccio in deficit, e chi li tira fuori? E Umberto Bossi ha subito risposto, beh, cominciamo dalle grandi banche per esempio. Allora sentiamo Jacopo Morelli come la pensa, e io intanto lo saluto e lo ringrazio, e la mia prima domanda, prima che chiamino gli ascoltatori all'800240024, è questa: come diavolo succede che nella vita, a un certo punto, tra le tante cose che si fanno con l'impresa propria o di famiglia, o se la si è fondata o se la si è ereditata e bisogna cambiarla, se la si guida già, ci si mette anche a fare la vita associativa di giovani di Confindustria e si diventa pure presidente? Buongiorno. Buongiorno direttore, buongiorno a tutti gli ascoltatori e grazie dell'invito. Ma è molto semplice, perché si decide di essere, di impegnarsi come giovani imprenditori? Perché si vuole combinare quelli che sono programmi e progetti imprenditoriali con l'interesse del paese, anche perché una classe dirigente come noi siamo è pienamente legittimata quando sta a generare un bene comune anche attraverso degli interessi particolari. È questo un atteggiamento normale nelle democrazie avanzate e ci auguriamo che lo diventi sempre più nel nostro paese. Lei lo sa che c'è chi diffida sempre di questa affermazione a cui Confindustria nel suo sistema tiene molto, perché dice in realtà fate i vostri per così dire sporchi diretti interessi come ogni sindacato, la pretesa di essere poi interesse generale è una pretesa da respingere. Come si coniuga invece l'essere rappresentanti di un interesse, quello dell'impresa italiana, soprattutto quella manifatturiera industriale, e contemporaneamente dire siamo l'interesse generale, siamo per l'interesse generale? Guardi, a me sembra molto semplice, perché la crescita economica che è data dagli imprenditori è una funzione dello sviluppo e del benessere sociale, quindi con questa impostazione culturale, diciamo così, che vogliamo soprattutto noi come giovani imprenditori, no, ribadire tutta quella che è stata la storia del nostro movimento, cioè di persone che mentre facevano e fanno impresa hanno bene in testa l'interesse di tutta la gente. Poi basta in questo caso guardare le nostre proposte, come quelle che abbiamo fatto a Santa Margherita. Sono proposte che prima che andare a toccare, nel senso come beneficiari, gli imprenditori, i giovani imprenditori, vanno a difendere quelli che sono gli interessi delle persone più deboli in questo momento nel paese, che sono i giovani e le donne. Ecco, su questo lei ha fatto proprio poche secche proposte chiare. Le vogliamo un secondo ricordare? Certamente, noi abbiamo proposto, sono quattro proposte, una l'abbiamo chiamata aliquote giovani, aliquote rosa, riguarda in sintesi quello di abbassare prima di tutto le tasse ai giovani, alle persone che iniziano a lavorare. La Banca d'Italia d'altronde ha mostrato che il salario di inserimento, cioè il primo stipendio che le persone prendono in questi anni, è drammaticamente calato, e a questo non ha corrisposto una prospettiva di carriera più rapida, anzi. Lei faccia conto che i giovani laureati in Italia, nella fascia compresa tra i 25 e i 34 anni, guadagnano rispetto a un laureato che lavora l'80% della retribuzione. Nei paesi OCSE è il 90%, nel Regno Unito è del 96%, quindi da noi i giovani che lavorano, anche laureati, sono particolarmente, se vuole, svantaggiati nell'ingresso e poi nei meccanismi di carriera. Aggiungo un altro dato, che in Italia su 5 disoccupati 4 sono giovani, ok? Mentre in Germania ne abbiamo 1,4 e 2,4 nell'area euro, quindi dobbiamo assolutamente intervenire, così come dobbiamo intervenire su tutti i meccanismi che possono favorire e liberare il lavoro femminile. La seconda proposta riguarda il cuneo contributivo e il sistema pensionistico. Anche lì abbiamo proposto di ridurre i soldi, lo traduco in maniera un pochino rozza, però, che dalla busta paga del lavoratore vengono prelevati per pagare chi in questo momento sta in pensione, diciamo, soprattutto anche lì per i giovani, i primi anni facciamoli pagare molto meno di questi contributi, diamogli in questo modo più risorse per poter consumare, risparmiare e soprattutto costruirsi in maniera autonoma un futuro. Questo riguarda anche lì prima di tutto i tanti giovani italiani che alle spalle non hanno una famiglia, non hanno la mamma e il papà che gli possono dare, diciamo così, una mano. E poi sulla nuova imprenditorialità, quindi non chi è in questo momento imprenditore, ma chi avrebbe un progetto, desiderio di diventarlo, abbiamo proposto di abbattere in maniera assoluta l'IRAP, questo come meccanismo per tutti gli imprenditori, o meglio, ripeto, tutte le persone che decidono di fare start-up, quindi creare nuova impresa. Questo è un meccanismo che le regioni in maniera concreta potrebbero mettere immediatamente sul campo, senza aspettare il 2013 e l'entrata in vigore del federalismo fiscale. Con questo sistema, anche lì, della leva fiscale, ci sono alcuni paesi, faccio un esempio tra tutti, Israele, che hanno dimostrato, un paese, lei faccia conto, che ha 7 milioni e mezzo di abitanti, cioè meno di quanto ne ha l'intera Lombardia, di poter definire, è stato definito appunto Startup Nation, cioè paese delle nuove imprese, delle startup, perché attraverso un uso consapevole della leva fiscale ha incentivato gli imprenditori, ha messo vento nelle loro vele, e oggi Israele ha 125 imprese quotate al Nasdaq, cioè alla borsa tecnologica mondiale degli Stati Uniti. 125 imprese significa più di tutte le imprese quotate che hanno nel settore tecnologico i paesi europei, il Giappone, Corea, l'India e la Cina messe assieme. E nonché, ricordo a chi è in ascolto, ohimè, visto oramai il basso peso di Borsa Transpa e della, esatto, sua valorizzazione, quasi la metà del totale delle quotate italiane, del totale, esatto, in tutti i settori, cioè ecco, c'è da rifletterci davvero. E l'ultima, e chiudo, quarta proposta, riguarda l'università e la ricerca. Noi abbiamo proposto, anche lì non è una proposta originale, perché l'aveva tirata fuori già nel 1947 un nostro ex Presidente della Repubblica, nonché Governatore della Banca d'Italia, Luigi Einaudi, l'abolizione del valore legale dei titoli di studio, perché anche lì, cito Einaudi, il valore legale è trarre in inganno i diplomati medesimi, cioè dobbiamo avere il coraggio di dire che il re è nudo, una scuola o un istituto superiore o un'università A è diversa da un'università B, cioè, o meglio, ciascuna offre una preparazione differente, non è vero che danno la stessa preparazione e quindi le stesse opportunità per il futuro. I ragazzi e le famiglie invece queste cose le devono sapere, devono essere potuti valutare gli insegnanti in maniera tale anche lì che il sistema sia più competitivo e soprattutto che, ripeto, i ragazzi, indipendentemente dalla famiglia di origine, abbiano una cassetta degli attrezzi per affrontare il mondo, il futuro in maniera serena, autonoma, per essere uomini liberi, perché veramente in una democrazia, in un paese, in un grande paese, il futuro inizia dai banchi di scuola. Perfetto, ora iniziamo con le domande degli ascoltatori. Io intanto frammezzo anche delle risposte agli sms che arrivano al 349-238-6666, moltissimi naturalmente iniziano a polemizzare con me accusandomi di tradimento, perché sicuramente il 51% ci sarà, perché dei farlocchi come me per il no sono andati a votare. Ragazzi, se questa è la vostra espressione, chi la pensa così, chi la pensa così, solo coloro che la pensano così, ma sono molti, Simone, eccetera, eccetera, guardate che avete rivelate l'imposta stazione con cui guardate alla vita pubblica italiana, cioè a furia di dividervi in curve da stadio e a pensarvi come eserciti contrapposti, se il vostro errore si rivelerà, come immagino, quello di non aver capito che cosa è in moto nel paese da un bel po' a questa parte e non aver capito quindi che il segno del politico nel dire no al governo prevaleva sul merito, che pur raccontato, per carità, perché sul nucleare, sull'acqua sono volate fior di sciocchezze. Detto questo, e se immaginate che a quel punto il 51% si fa e la colpa sarà dei traditori, beh, vorrà dire che dovreste riflettere molto sulla vostra incapacità, ripeto, di prendervela nel senso giusto, con la misura che gli italiani danno di quello che pensano, comunque la pensino, anche se sono avversi alla vostra opinione. La intelligenza degli avvenimenti consiste in questo, nell'avvertire prima che si manifestino le conseguenze fino in fondo, ma che però avvertirle le conseguenze di ciò che si fa. E questo governo di appuntamenti ne ha mancati troppi. E gli italiani iniziano a pensarlo, non solo quelli che non hanno mai pensato come questo governo, ma tanti di quelli che come me non fanno mistero di essere liberali, liberisti, antistatalisti, per questo non sopportano più 17 anni di promesse, per questo non sopportano più interventi come anche quelli sul nucleare e l'acqua, posti in essere da una politica che poi sparisce invece di difenderli. Forse se andavate a votare era meglio per tutti, eh? Che ne dite? Allora, sentiamo intanto le prime chiamate, cominciamo con Franco da Brescia. Allora Franco, qual è la sua domanda a Jacopo Morelli, il presidente regionale di Confindustria? Franco, prego. Allora, prima cosa devo dire grazie a quello che ha detto sul fatto di andare a votare. Io sono andato a votare perché è un mio diritto. E quelli che non vanno a votare, che si lamentano, non hanno neanche il diritto di parlare. No, no, non sono no, Franco, il diritto di parlare ce l'hanno, ma basta rispondere educatamente. È un diritto, non è un dovere per il referendum. A me secca che qualcuno mi dia del traditore, perché non capisco a che cosa dovrei essere fedele se non alle mie convinzioni. Tutto lì. Ma comunque andiamo alla domanda, Franco. Comunque, volevo fare una domanda al presidente di Giovani Imprenditori. Ho letto sul giornale, non so se è venuta da lui o era al congresso, che ha detto che gli uomini e le donne dovrebbero andare a 70 anni in pensione. Franco, questo è lo stesso argomento sul quale c'è una raffica di sms di ascoltatori che gli chiedono, diciamo con una certa rudezza, Jacopo Morelli, perché dobbiamo pagare noi a lavorare fino a 70 anni. Lei che ne pensa, Franco? Io ho 53 anni, faccio l'agente di commercio, posso resistere fino a 70 anni, ma uno che fa il muratore, che lavora in fonderia, che va a scaricare delle cose, come fa ad arrivare a 70 anni? Vabbè, poi parlando di giovani che le aziende pagano molti contributi, ma adesso sono tutte persone che fanno l'itinerario e fanno 2 anni di lavoro, poi sono a casa e le aziende non pagano le tasse su queste cose qua. Pagano pochissimo. Io lavoro in un'azienda dove purtroppo vedo dei ragazzi che ci sono, poi dopo spariscono e arrivano degli altri nuovi. Ecco il perché dico, facciamo prima assumere questi ragazzi che hanno un posto sicuro, allora si può dopo chiedere. Lei dice c'è ancora troppo precariato. Le percentuali non dicono così rispetto al resto d'Europa, però lei dice allora se vogliamo davvero prendeteli a tempo indeterminato. Sentiamo la risposta del presidente Morelli. Guardi, innanzitutto rispondo che nella nostra proposta l'abbiamo detto e abbiamo scritto che chiaramente quando diciamo di innalzare e di portare rapidamente ai 70 anni l'età di pensionamento, abbiamo anche detto questo tutelando quelli che sono i lavori cosiddetti usuranti, che però sono semplici da individuare, perché dietro se no questa foglia di fico dei lavori usuranti, e i lavori usuranti ci sono ma sono facili e le persone che fanno realmente lavori usuranti, quelli devono essere tutelati. L'altra parte invece è bene che si riadegui a quello che sta avvenendo nel resto dei paesi d'Europa, tra l'altro non solo del mondo, quindi non prendo paesi cosiddetti estremamente aggressivi del Far East, e poi parliamo di quelli che sono i dati. In Italia solo il 62% degli uomini che hanno tra i 55 e i 59 anni partecipa al mercato del lavoro, ok? Il 62%. Nei paesi OCSE questa media è del 78%, vuol dire che da noi lavora in media il 16% in meno rispetto a tutti questi altri paesi, e vuol dire che nel nostro paese ci sono ancora incentivi al pensionamento giovanile troppo alti. Oggi si dice che il sistema delle pensioni è in equilibrio, ma è in equilibrio perché viene ancora più caricato sulle spalle dei giovani. Ci sono circa 23 milioni in questo momento di occupati in Italia e circa 17 milioni di pensionati. Questa situazione va via via peggiorando. Portare e far andare le pensioni, le persone in pensione verso i 70 anni significa proprio invece favorire i giovani, perché significa poter far pagare loro contributi previdenziali più ridotti, quindi dargli più soldi in busta paga, senza andare a penalizzare tante persone anche lì, perché non me ne importa nulla di essere a tutti i costi politicamente corretto. Tante persone che vanno in pensione, e ciascuno penso degli ascoltatori ne conosce tanti di casi, magari va in pensione e poi inizia un secondo lavoro, quello magari non tracciato dal fisco, e allora non prendiamoci in giro per cortesia, abbiamo anche lì il coraggio di guardare con occhi lucidi la realtà. Oh, tanto per, io ricordo a chi è in ascolto che per effetto del troppo lungo, questo mio giudizio, processo temporale di attuazione del pieno passaggio del sistema previdenziale da retributivo a contributivo, cioè il troppo lungo periodo di attuazione che ci siamo dato della riforma Dini, la Svezia l'ha fatta in 6 anni, noi ci siamo dati un periodo di tempo superiore ai 25, ancora l'anno scorso, sono i dati che ci ha rivelato l'INPS con il rendiconto sistema previdenziale 2010, noi abbiamo avuto che più del 10% del totale dei nuovi rapporti previdenziali posti in essere, cioè maturati e il cui pagamento è iniziato nel 2010, cioè più di quasi 180.000 nuovi rapporti, 180.000 sono state pensioni ancora una volta di anzianità, con la finestra di coloro che avevano 58 anni, 170.000, ecco, cioè questo dato sul quale il presidente Morelli vi ha richiamato, andiamo a in pensione troppo giovani, qui non è questione di aver maturato il diritto, il problema è che nel paragone con tutti i paesi avanzati, una delle componenti della produttività molto elevata è la partecipazione al mercato del lavoro, la nostra resta bassissima, pensateci invece che sia solo un gravame sugli i più anziani. Eccoci tornati col presidente dei giovani imprenditori Confindustria, Jacopo Morelli, sentiamo Stefano che chiama da Roma. Prego Stefano. Buongiorno a tutti. Prima il dottor Morelli ha parlato di alcune cose che stanno chiedendo i giovani imprenditori per aumentare il lavoro dei giovani, delle donne, eccetera. Le uniche cose che ho sentito sono richieste allo Stato: abbassare le tasse, levare l'IRAP, dare agevolazioni per l'ingresso ai giovani, alle donne al mercato del lavoro. E gli imprenditori cosa fanno? Un'altra cosa, volevo far notare che se non facciamo pagare i contributi ai giovani adesso, non si ritroveranno poi quando forse andranno in pensione, considerato che adesso, per chi è che entra nel mondo del lavoro adesso, c'è solamente il fattore contributivo e non retributivo, e che è questo che sta causando la fuga di tanti professori, io lo so perché mio figlio va ancora a scuola, che stanno sbrigandosi ad andare in pensione per evitare di perdere soldi, e io credo che sia assolutamente comprensibile in un mercato cercare di avere il massimo del profitto con il minimo impegno. Che ne pensa? Beh, interessante la sua questione. Naturalmente la questione che lei pone a Morelli, sentiremo adesso immediatamente la risposta, è: voi chiedete allo Stato? No, il piccolo problema, questo però è la mia parte di risposta da liberista e antistatalista impenitente, è che lo Stato si è preso il diritto di prenderselo. Io sulle mie due società pago il 68% totale su tutte le imposte rispetto al reddito lordo, sono arrivato a questa percentuale, insomma, che diciamo per essere un socio che non mi sono scelto e che grava per oltre 2/3 è bella impegnativa. Qua non si tratta di chiedere sacrifici allo Stato, per il momento è solo lo Stato che mi punta la pistola alla testa e si prende del mio. Naturalmente lui se lo prende quando dice lui e non posso sgarrare di 5 secondi, se ho dei pagamenti da farmi regolare, col cavolo che vale la stessa regola, se ho dei crediti, col cavolo che me li prendo negli stessi tempi in cui li viene sul conto, dando piena esecutività ad accertamenti che arrivano all'esecutività prima ancora di ogni tipo di pronunzia in un contenzioso. Ecco, questa è la mia risposta, non quella del presidente Morelli, ma per dire che altro che chiedere sacrifici allo Stato, qua è lo Stato che mi tartassa e mi deruba, lo dico io, presidente Morelli, lungi dall'usare questo linguaggio. Presidente, lei che risponde? Guardi, molto semplicemente gli imprenditori fanno quello che devono fare, cioè tutti i giorni noi creiamo, lavoriamo per creare ricchezza per il paese, perché vede, qua si parla tanto appunto di pensioni, di risorse, di stipendi giustamente dei professori, degli insegnanti, ma prima che pensare a distribuirla e a come distribuirla questa ricchezza, qualcuno si deve occupare, guarda caso, di crearla, perché se prima questa ricchezza non la si crea, non ce n'è da distribuire per nessuno. Questo è il mestiere degli imprenditori, che fanno tutti i giorni in maniera silenziosa, e forse anche lì bisognerebbe imparare nel nostro paese, come avviene in tanti paesi del mondo, a celebrare un pochino di più i successi delle imprese. E quando parlo delle imprese non parlo appunto degli imprenditori, parlo delle imprese, cioè degli imprenditori e di tutti i collaboratori, di tutti i lavoratori che insieme agli imprenditori contribuiscono a questo tipo di lavoro. E poi chiedo scusa, anche lì questa storia di esodo dei professori, a me questi atteggiamenti sembrano assolutamente irresponsabili. Nelle scuole della Repubblica viene insegnato o veniva insegnata una materia che era educazione civica, bel esempio questo qui. Anche io non mi ritrovo insieme a me migliaia e migliaia di colleghi neanche nell'affermazione massimo profitto con il minimo sforzo. Altrimenti faremmo gli speculatori, non faremmo finanza e non impresa, visto, esatto, che il tasso di rendimento medio insomma è un po' più elevato. Ecco, questa mi pare una bella risposta combattiva, mi piace questa maniera di rispondere del presidente Morelli. Pierpaolo, che chiama ancora una volta da Roma, prego Pierpaolo, rapido. Pronto, buongiorno, sono il dottor Morelli e Giannino. Io stavo ascoltando un pochino le vostre riflessioni e ne ho una che ormai mi gira in testa da un po' di tempo. Io sono un vecchio, perché così sono stato definito dalla mia azienda, che a 40 anni ha deciso di smettere le persone della mia età. Mi sono trovato quindi da un giorno all'altro senza un lavoro e con la necessità di portare avanti una famiglia, pagare un mutuo e crescere. Continuo a sentir parlare in questi ultimi mesi sempre di giovani, di come possono fare i giovani per trovare un lavoro, come possono fare i giovani a entrare nella... Mentre lei dice le vere vittime nuove è un'altra, si è un po' spostata nel tempo là. Scusa? Dico, lei dice le vere vittime della crisi siamo noi, perché non siamo giovani ma siamo una quarantina, questo. Non solo, io riporto la testimonianza di un collega che si è suicidato. Perché certo, non troviamo più un modo di rientrare nel mercato del lavoro. Io nonostante abbia cominciato ormai 4 anni fa cercando di mettere su una piccolissima azienda che si occupava di sicurezza sul lavoro, ad oggi faccio fatica a raccimolare la metà del mio reddito di quando ero un dipendente. Ho capito, Pierpaolo, e anche per questa una delle quattro proposte è per lo startup delle imprese giovani, capisce? Una delle quattro proposte che aveva illustrato Morelli. Comunque sentiamo le considerazioni del presidente Morelli. Ma guardi, innanzitutto io ho grandissimo rispetto e vicinanza per le persone come il nostro ascoltatore che è rimasto in questo caso senza lavoro, ha delle difficoltà, però in maniera attiva, perché questa è la cosa più importante, anzi continua a ricercare, a inventare, continua a ricercare, a sforzarsi e così via. Io gli faccio tantissimi complimenti ed auguri per questo. Poi, come al solito, evidenzio un problema del nostro sistema del welfare. Anche lì non raccontiamoci sciocchezze, qui si tende più a tutelare quelli che sono a volte i posti di lavoro, espressione anche lì posti di lavoro secondo me orribile, che esiste soltanto in Italia come se fosse qualcosa, non lo so, un sedile, nel resto del mondo è semplicemente job, è lavoro, anziché quelli che sono i lavoratori. Quindi noi abbiamo alla fine dei sistemi che vanno a tutelare magari anche aziende e carrozzoni decotti, piuttosto che non situazioni del genere, magari studiando appunto meccanismi per cui una persona che attivamente cerca lavoro a una famiglia a carico è fino a un certo numero di mesi tutelato molto più di quanto viene fatto adesso. Chiaramente per fare questo bisogna liberare delle risorse e decidere in maniera seria di spostarlo da un capitolo di spesa ad un altro. Comunque anche lì, siccome i posti di lavoro non si creano per decreto, ma si creano attraverso imprese, soprattutto nuove imprese, in questa direzione tutti insieme dobbiamo spingere, perché non è una battaglia questa qui degli imprenditori, è una battaglia per tutte le persone, soprattutto per chi, come il nostro ascoltatore in questo momento, si trova in una situazione di debolezza. Allora, sentiamo, io mi ero preoccupato perché sono tutte voci maschili, il presidente Morelli c'ha questo bel accento toscano. Ieri mi ha fatto molto piacere la sua replica, ha citato Machiavelli, Ricassoli. Per me che sono cresciuto in una cultura risorgimentale nazionale, sentire il presidente dei giovani di Confindustria che abbraccio e infiorettano i loro interventi con un po' di sana cultura di riferimento anche nazional patriottico, ecco, devo dire la verità, non è proprio così ricorrente, ecco, nei convegni di Confindustria. Però mi preoccupavo che non ci fossero ascoltatrici, invece c'è almeno una telefonata di ascoltatrici, me l'hanno passata, ed è un nome singolare, secondo me molto bello, tra l'altro ci fa pensare a quello che sta avvenendo in questi giorni in quel paese. Comunque, Siriana, io spero che il nome sia giusto, Siriana, che chiama dalla provincia di Firenze, prego. Buongiorno. Buongiorno. Senta, mi trovo con difficoltà perché sono una persona ignorante e non so nemmeno esprimermi. Comunque volevo dire questo, quando arriviamo a una certa età è faticoso fare il turno pieno al lavoro. Nessuno ha pensato a fare una proposta 50% di lavoro e 50% di pensione. Io ho un anno che sono in pensione, sto benissimo perché l'ho desiderata e quindi fa una donna, cioè ho mille attività, però mi manca la relazione con il, cioè, diciamo, con il mondo del lavoro. Sì. Se invece avessi potuto fare un 50%, io sarei rimasta al lavoro, perché il 50% non mi sarebbe pesato, mentre il 100% non ce la facevo più. Cioè lei dice pensare di lavorare magari più, ma riducendo l'orario, è questa? Riducendo l'orario, riducendo. Perché a una certa età non ci si fa più come quando siamo più giovani, inutile negarlo, anche se siamo in buona salute, in attività, però insomma, la resistenza di quando abbiamo 40 anni non l'abbiamo più. Però riducendo l'orario di lavoro, siamo, cioè, per me sarei sempre stata in grado di dare quello che potevo dare. Va bene, Siriana, un conto è la riduzione dell'orario di lavoro nel quadro delle flessibilità che sono possibili nella gestione del mercato del lavoro, diciamo di reciproca convenienza, e magari anche lì per consentire al meglio di coprire carichi familiari o per consentire al meglio di supplire in maniera sussidiaria ciò che il welfare pubblico non può dare per l'assistenza agli anziani, oltre che carichi familiari, numerosità delle famiglie e così via. Altro conto è assumerla come misura rigida, perché sono i paesi che hanno assunto la politica della riduzione dell'orario come sostegno all'innalzamento del tasso di occupazione, hanno dovuto registrare che la cosa non funziona molto, per così dire. Però adesso mi sono permesso io di rispondere semplicemente perché metto un'altra telefonata al volo e poi facciamo l'interruzione brevissima sull'informazione stradale e poi consentiamo così a Morelli di rispondere a due telefonate insieme. E sentiamo Giulio che chiama da Treviso, prego Giulio. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti, al Presidente e agli ascoltatori. Giulio Treviso, 53 anni, dipendente di un'azienda privata. Volevo chiedere, farmi una ragione, di come è possibile conciliare due opposte tendenze. L'esigenza previdenziale di mandare in pensione più tardi i dipendenti, sì, e l'esigenza delle aziende di rendere più giovani i dipendenti, di mandare in pensione a 50 anni la gente. Un dipendente di 50 anni è vecchio per un'azienda, viene pagato. Però no? Giulio le ha già risposto a questo Morelli, perché gli ha detto qui la rigidità del mercato del lavoro come funziona adesso, che pretendendo di difendere i posti così come sono e come ne sono, poi alla fine che cosa succede? I prepensionamenti con gli scivoli a carico poi dell'INPS e anche delle aziende in parte, e avvengono perché le regole sono rigide. Invece di tutelare il lavoratore dalla perdita del reddito, si pensa a tutelare la difesa del posto di lavoro. Eccoci tornati in studio, ai 3-4 ascoltatori, forse sono gli stessi in macchina perché scrivono parole più o meno uguali, che mi accusano di dire, scusate per coloro che sono in ascolto, ma è per darvi l'idea che a volte arrivano messaggi di questo tipo, una caterva di stronzate, dicono loro, sul fatto che la riduzione dell'orario di lavoro non funziona, io sarei un cretino ignorante. Ecco, io non replico con nessuno di questi insulti, anche se li invito a non scriverli, perché non mi piace chi insulta, perché si autoqualifica. Detto questo, voi confondete clamorosamente le misure in cui, come ho detto, era di reciproco interesse per imprese e sindacati modulare anche l'orario di lavoro per flessibilità, da quelle, come ho detto, dei paesi che l'hanno adottato come tentativo invece di linea generale, riduzione dell'orario di lavoro per innalzare il tasso di partecipazione al mercato del lavoro. Secondo i paesi come quelli della Francia, il 35 ore hanno dovuto prendere atto che era un'illusione ideologica. Chiaro? Ideologica. Ha alzato solo i costi, diminuendo i margini delle imprese. Perché? Perché poi nel frattempo la riduzione di costo, cioè di orario, era molto meno che proporzionale quello che accettavano i sindacati. Stiamo parlando del settore pubblico, poi francese, quello poi ipersindacalizzato, perché quello privato è iposindacalizzato. Cioè il 9-10% dei lavoratori dipendenti del settore privato francese sono iscritti al sindacato solo. Allora, invece in Germania, quello a cui fate accenno voi, cioè i grandi contratti di solidarietà di grandi aziende come Siemens, Bosch, eccetera, quelli che hanno difeso l'eccesso di costo all'inizio degli anni 2000 e hanno impedito delocalizzazione e difeso occupazione, hanno messo insieme nell'offerta delle imprese e nel sì poi di EG Metal, il sindacato unico, due principi. Primo, che bisognava intanto dare una settimana o due settimane di lavoro in più senza essere pagati in più per alzare la produttività del lavoro. Questo è quello che è avvenuto in Germania. Poi, di fronte alle crisi che sono avvenute, di fronte alla crisi del 2008-2009, essere disponibile anche a diminuire gli orari per difendere il posto di lavoro con diminuzione di retribuzione più che proporzionale. Ecco, quando voi fate riferimento a questo e insultate gli altri, forse è bene che vi informiate su cos'è un sindacato che ha in mente un'idea di gestione flessibile ma condivisa con le imprese, perché condivide sia i successi che i momenti di difficoltà e così meglio difende il lavoro e la capacità di reddito reale dei dipendenti. Quanto siamo lontani da questo in Italia dove i 18 turni a Mirafiori sono stati presentati come Auschwitz, dimenticando di dire che gli alimentaristi ne possono fare fino a 21, ecco, tanto per essere chiari. Allora, le risposte del presidente Morelli intanto alle due domande che erano rimaste indietro. Ma guardi, faccio una considerazione su entrambe le domande che mi sembra doverosa. L'Italia, diciamo così, che è un paese che è incapace di riagganciare la crescita, ok? Perché noi stiamo crescendo e ci diamo come obiettivi a volte il tasso di crescita all'1%, quando solitamente nel resto del pianeta addirittura un tasso di crescita al 2% è considerato pre o anti-recessione, ok? Quindi è incapace di riagganciare la crescita e fa pagare i costi sociali di tutti questi suoi ritardi alle persone più deboli e continua a procedere a due velocità: quella di chi affronta il mercato, corre, compete e rischia, e quella di chi al riparo di concorrenza e merito zavorra tutto il resto. Ecco, noi facciamo il tifo per il primo gruppo di persone. L'ascoltatrice mia conterranea, tra l'altro, che ha fatto una osservazione, ha sollevato anche un'osservazione interessante, cioè perché mi dà la possibilità di dire chiaramente: gli imprenditori sono persone di buon senso, siamo tutti lavoratori, imprenditori, pensionati, siamo tutti concittadini, siamo tutti italiani e nessuno, non descriviamo immagini da vignetta dove gli imprenditori vogliono nelle proprie aziende vecchietti o vecchiette che non si sentono bene e che a malapena sono sulle linee di produzione. È chiaro che prima di tutto è interesse dell'azienda avere cittadini e persone sane, perché anche qui se no si rischia di descrivere gli imprenditori come se fossero degli aristocratici incipriati alla corte di Versailles, fuori dal resto del mondo. Noi siamo persone con i piedi ben piantati per terra e facciamo delle proposte che, ripeto, sono nell'interesse prima ancora degli imprenditori, delle persone che in questo momento hanno difficoltà, i giovani, le donne e anche le persone magari non più giovanissime che sono senza tipi di lavoro. E poi sul discorso dell'altro ascoltatore che ci diceva: ma insomma le aziende, come si concilia questo discorso? Allora, se vogliamo fare dei ragionamenti seri li dobbiamo guardare nel quadro complessivo, un sistema paese, un sistema economico lo si imposta in maniera complessiva, in maniera strategica. Lo ripeto, il lavoro si crea prima di tutto attraverso la creazione di nuove imprese e quindi quella non lo dobbiamo quella dobbiamo favorire anziché continuarla a zavorrare con mille catene che non sto qui a ripetere. Secondo di poi, spesso mandando in pensione o costringendo, come diceva la signora prima, le persone ad andare troppo presto in pensione, le aziende e il paese disperdono patrimoni di conoscenze e di saperi che sono enormi e questo è un danno ulteriore. Morelli, bastano pochi secondi per dare una risposta a una domanda difficile, cioè: rigore e riforma fiscale per la crescita possono coesistere? Ci crede? È giusto farle coesistere oppure sono in antitesi, come sembra di nuovo da Maroni e Tremonti in questi due giorni? No, guardi, allora, innanzitutto chiunque abbia studiato anche il manuale base, un manuale base di economia, sa benissimo che non c'è antitesi, antinomia tra rigore dei conti e crescita, anzi sono due cose che vanno a braccetto. E smettiamolo di utilizzare il discorso teniamo in ordine i conti, quindi non chiedeteci più di far crescere il paese, perché questo anche lì è una grande sciocchezza. Sono assolutamente coesi queste due cose e noi come giovani imprenditori di Confindustria non ci stancheremo mai di ripeterlo. Bene, lasci dire l'ultima cosa, visto che mi diceva di Machiavelli, voglio ripetere un concetto che è comune a tutti noi giovani imprenditori, una bella cosa che scriveva appunto Machiavelli a un suo amico che era Viettori: amiamo la patria nostra più dell'anima nostra, e con questo spirito noi vogliamo andare avanti. Bene, avete capito che il presidente Morelli mi piace perché è tagliente e secco e quindi io lo chiamerò spesso per chiedergli le opinioni, le rompiamo le scatole, ma insomma il nostro pubblico vedo che ha suscitato un bel po' di reazioni. Poi le faccio vedere le sms che sono arrivate, l'accusano di essere troppo tagliente, troppo con l'idea del mercato che risolve, però insomma il bello di Radio 24 4 è anche di avere un pubblico eterogeneo, e questo è del resto il dovere di parlare a un paese multianime e che ha questioni, obiezioni al fare impresa, al libero mercato e così via. Comunque, noi ci battiamo nella convinzione che c'è un equilibrio di un pubblico che sa fare quel poco che deve, ma che spesso in Italia non fa, e che non rapina per questo le tasche dei tanti che si spaccano la schiena e creano il lavoro e l'impresa, e in questo però poi non riescono a vedere un paese che è all'altezza delle prospettive di crescita di futuro, di ciò che merita la dignità e il lavoro di milioni e milioni di italiani accumulati nei decenni. Grazie al Presidente Morelli, grazie a voi tutti, e mi pare di capire domani specialone con Alessandro Mina dalle 8:20 insieme a Oscar Giannino sui quesiti referendari. Intanto batti quorum fino alla fine, però mi sa che siamo proprio vicini. A domani. 9 in punto.